Thank you. Un'occasione abbiamo portato qui. Ed è capire quanto fortunati siamo. Quanto è bello tenere super male. Ma la felicità delle persone si stringe. Quanto è bello andare fuori e passeggiare in aeroplano. Quanto è bello star distesi sul prato e vedere passare un aeroplano. Quanto è bello parlare, scherzare, abbracciare, giocare, correre e urlare, senza aver paura di potersi contagiare. Tutte cose che potremmo rifare, se adesso un po' di noia sapremmo sopportare. Tutte cose sembravano scontate, che speriamo saranno più apprezzate.